24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la situazione in Grecia. Potrebbe esserci una schiarita sulla formazione del nuovo governo ellenico, mentre l'Europa trattiene il fiato e il presidente della Commissione Barroso minaccia: se Atene non rispetta le regole, uscirà dall'euro. La cancelliera tedesca Merkel disegna la strategia di rigore e crescita in vista del prossimo G8. Via libera dell'Europarlamento al taglio delle tariffe in roaming, mentre in chiusura torniamo in Grecia, questa volta per parlare di Olimpiadi. In apertura alla situazione nell'Eurozona, ci sono sviluppi importanti in Grecia con il terzo premier incaricato e il leader del PASOK Evangelos Venizelos che annuncia segnali positivi sono emersi dall'incontro col leader della sinistra democratica Kouvelis, che si è detto disponibile a entrare in una coalizione di tutte le forze democratiche. Kouvelis, il cui partito ha ottenuto 19 seggi, ha affermato di essere disposto a entrare in un governo di coalizione che mantenga la Grecia nell'euro ma si disimpegni dal memorandum con il quale Atene ha ottenuto prestiti in cambio di tagli e altre misure di austerità. Il tutto mentre l'Unione Europea tiene alta la minaccia. Se un membro del club non rispetta le regole è meglio che se ne vada dal club, così il presidente della Commissione Barroso, riferendosi proprio alla Grecia. Ho molto rispetto per la democrazia ellenica e il Parlamento greco, ma devo anche rispettare gli altri 16 parlamenti nazionali che hanno approvato il programma per la Grecia, ha poi spiegato Barroso. Da Berlino la cancelliera tedesca Merkel delinea intanto l'agenda tedesca al Bundestag in vista del vertice G8. Il freno ai debiti e la crescita sono i due pilastri della strategia contro la crisi, ha affermato. La Merkel ha però nuovamente affossato l'ipotesi di Eurobond. Non esistono strumenti miracolosi, ha detto, indicando una crescita basata sulle riforme strutturali e non attraverso i debiti. Ci riporterebbe all'inizio della crisi. Infine in Francia si è dimesso il premier François Fillon, a conseguenza formale della proclamazione ufficiale della nomina presidente di François Hollande. Hollande si recherà da Angela Merkel martedì, subito dopo l'investitura. Il presidente francese eletto ha già incontrato il presidente uscente dell'Eurogruppo Juncker. E sarà Paul Jean Ortiz, 55 anni, diplomatico specializzato sull'Asia, profondo conoscitore del mandarino, il consigliere per la politica estera del neopresidente francese Hollande, a riferirlo Pierre Moscovici. Il paese sta attraversando una fase difficile della sua storia, ma l'Italia ce la farà. Ne è sicuro il premier Mario Monti, che lo ha scritto in un messaggio al presidente della Repubblica Napolitano in occasione del 6° anniversario dell'elezione. Deciso a realizzare il mio mandato, ribadisce ancora Monti, in una giornata però ancora di allarmi legati alla crisi e di sollecitazione all'Europa. È un disagio profondo, molto più ampio di quanto possano raccontare i numeri. La mancanza di lavoro in Italia preoccupa il governo, in particolar modo il ministro dello sviluppo economico Passera, che lancia l'allarme sul rischio di tenuta sociale. Se mettiamo insieme i disoccupati, gli inoccupati, quelli che non cercano neanche più lavoro, i sospesi, cioè i cassa integrati, e i sottooccupati, arriviamo a una cifra di 5, forse 6, forse 7 milioni di persone. Quando si arriva a situazioni di questo genere, non è soltanto a rischio il consumo o gli investimenti, è a rischio anche la tenuta. Passera punta il dito contro l'Unione Europea, che dice non ha fatto la sua parte ma ora deve garantire i più deboli. E a lanciare l'allarme sono anche gli industriali. La disoccupazione è in aumento, scrive il centro studi di Confindustria, e la ripresa dell'Italia si allontana. I consumi calano più del previsto e le esportazioni hanno perso slancio rispetto a qualche mese fa, mentre il credit crunch si è accentuato. Sale dunque per Viale dell'Astronomia la probabilità di caduta del PIL nel secondo trimestre 2012, più accentuata di quella prevista a dicembre, -0,3%, e forse di quella stimata per il primo, -1%. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Saranno rese note oggi le nuove previsioni economiche della Commissione europea. Fonti dell'esecutivo comunitario, citate dall'agenzia France Press, riferiscono che senza misure aggiuntive la Spagna non riuscirà a centrare gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici nemmeno quest'anno. Sul 2012 Madrid ha appena rinegoziato con Bruxelles la portata del taglio di deficit prevista al 5,3% del PIL. Intanto proprio la Commissione valuta molto positivamente l'operazione del governo spagnolo sull'istituto di credito Bankia. E il governo di centrodestra sloveno, guidato da Janez Janša, ha presentato in Parlamento un pacchetto di misure di austerità forte della pace appena siglata con i sindacati del settore pubblico, che hanno accettato una riduzione dei salari per far fronte alle urgenti esigenze di contenimento del debito. I mercati del lavoro dell'Eurozona continuano a indebolirsi, a scriverlo è la Banca Centrale Europea dopo che il tasso di disoccupazione a marzo ha raggiunto quota 10,9%. I dati delle indagini, scrive la BCE, segnalano ulteriori sviluppi negativi nel prossimo futuro. Siamo ai mercati. Le borse europee hanno chiuso in maniera contrastata una giornata vissuta all'insegna della volatilità, in attesa di novità sullo sblocco dello stallo politico in Grecia. Milano più 1,69% ha realizzato una delle migliori performance dopo Atene e Madrid, grazie anche alla notizia relativa alla sottoscrizione da parte di Goldman Sachs di 2,3 miliardi di dollari di titoli di Stato italiani nel primo trimestre. Le borse europee hanno chiuso in maniera contrastata una giornata vissuta all'insegna della volatilità in attesa di novità sullo sblocco dello stallo politico in Grecia. L'incarico di formare il nuovo governo è stato assegnato all'ex ministro Venizelos, che cercherà di creare un esecutivo pro-europeo di unità nazionale. Milano più 1,7% ha realizzato una delle migliori performance dopo Atene più 6% e Madrid più 3,4%, grazie anche alla notizia relativa alla sottoscrizione da parte di Goldman Sachs di 2,3 miliardi di dollari di titoli di Stato italiani nel primo trimestre. A Piazza Affari i conti hanno premiato Enel Green Power più 9%, A2A più 8,3%, Unicredit più 6,6% e Mediolanum più 5,5%, mentre i realizzi hanno colpito Pirelli meno 9,7% dopo il taglio dei target sui ricavi 2012. Nel resto del listino la migliore è stata Telecom Italia Media più 13,4% dopo che la controllante Telecom Italia ha comunicato di aver dato il via al processo di vendita delle attività media e quindi del canale televisivo La 7. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo accordo europeo per tagliare le tariffe della telefonia mobile in roaming, compresi i servizi di trasmissione dati, il costo di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e tablet quando si viaggia all'estero, ma entro l'Unione Europea, diminuirà drasticamente a partire dal 1 luglio, secondo un accordo col Consiglio europeo, che l'Europarlamento ha approvato in prima lettura a Bruxelles. La commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström ha salutato con un Yes We Can la presa di posizione del presidente statunitense Barack Obama in favore del matrimonio omosessuale. Nonostante il fascino planetario da qualche tempo vagamente ammaccato e il rischio di essere surclassati da vari punti di vista come potenza mondiale, gli Stati Uniti si confermano, pur nelle loro contraddizioni, come un faro universale al quale guardare per capire dove va il mondo, come il luogo dove ancora tutto è possibile, dove tuttora, insomma, pur con tutte le disillusioni, si può sognare il sogno americano. E a sognare in questo momento sono soprattutto i gay, americani e non, dopo che il presidente Barack Obama, collezionista di record, oltre a essere stato il primo presidente nero degli Stati Uniti, da qualche ora è anche il primo presidente americano ad aver detto le coppie omosessuali hanno il diritto di sposarsi. I think same-sex couples should be able to get married. La dichiarazione deflagrante arriva in un'intervista della ABC, nella quale Obama spiega di aver maturato la propria convinzione negli anni parlando con amici, famiglia e vicini. Da tempo, su una questione che divide gli americani quasi come l'aborto, si era mantenuto prudente nonostante le sollecitazioni da più parti a prendere una posizione netta, dicendo che il suo pensiero era in evoluzione. Ora pare si sia evoluto definitivamente, anche se qualche passo l'aveva già fatto. Ma dopo l'uscita in questi giorni del suo vice, Joe Biden, che si era detto assolutamente favorevole alle nozze omosessuali, non era più il caso di temporeggiare. Una scelta coraggiosa, quella di Obama, che, osservano in molti, potrebbe costargli il voto di una parte dell'elettorato cattolico. Ma dall'Unione Europea, la commissaria agli affari interni Cecilia Malmström prontamente lo sostiene su Twitter con lo slogan che accompagnò la sua ascesa alla presidenza degli Stati Uniti. Yes, we can. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo ora ad Atene. Nonostante la pesante crisi politica, la Grecia ha vissuto ieri il suo momento di gloria con l'accensione della fiaccola olimpica. Da Olimpia, Dario Ricci. Poco meno di 4 ore di macchina tra Atene e Olimpia, ma sembra di essere quasi in un altro paese, perché l'accensione della fiaccola è stata anche momento di ritrovato orgoglio e speranza per la Grecia. Quella di Olimpia è stata invece una festa, presente tutte le massime autorità del Comitato Olimpico Internazionale, a partire da Jacques Rogge e poi da Sebastian Coe, il presidente del Comitato Organizzatore di Londra 2012. Non è mancato anche il colpo a sorpresa, perché nel passaggio dal Tempio di Era, dove il sacro fuoco è stato acceso, allo stadio di Olimpia, dove poi avrebbe acceso la fiaccola olimpica, il sacro fuoco appunto si è spento per qualche istante. Speriamo non sia un cattivo presagio per questa staffetta che ha avuto in Spiros Giannotis, il campione greco di nuoto di origine britannica, il primo staffettista. Fino al 17 maggio la fiaccola olimpica rimarrà in territorio greco, poi nello stadio panatenaico di Atene, sede dei primi giochi moderni nel 1896, passerà di mano agli staffettisti britannici, che poi per poi accendere il braciere olimpico di Londra il 27 luglio prossimo.